Buon pomeriggio e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Marco Coppi, direttore artistico del Liber Paradisus Festival dell'Arci di San Lazzaro. Ciao a tutti, buon pomeriggio, grazie. Siamo qui per parlare della conferenza stampa che c'è stata oggi per questa rassegna di 10 date che vede il Circolo Arci di San Lazzaro cimentarsi in una rassegna di eventi molto variegata. Ce ne vuole parlare? Sì, guarda, intanto una breve cosa sul nome della rassegna, Liber Paradisus, musica liberata. Liber Paradisus fa riferimento al libro che pubblicò la legge che liberava gli schiavi bolognesi nel 1200 e oltre, quindi la prima città che abolì la schiavitù è proprio Bologna, e quindi di seguito musica liberata come metafora di un cartellone che è un po' fuori dagli schemi, senza barriere, senza frontiere, non è monotematico, e quindi liberiamo le ingessature che spesso si hanno nelle manifestazioni, nei festival, che sono molto spesso specifici e quindi monotematici. No, abbiamo fatto questo gioco di poter proporre un cartellone in 10 concerti molto trasversale, in cui ci sono personaggi di livello nazionale e internazionale che vanno dalla musica, la canzone italiana storica, al jazz internazionale, al rock progressive e alle contaminazioni tra addirittura il liscio e il fusion. E iniziamo venerdì 29 con Pierpaolo Capovilla, ex Teatro degli Orrori, un artista molto interessante, tra canzone e teatro, tra musica e teatro, si esibirà in un reading con musica, insieme a lui ci sarà un musicista, ed è una data molto, molto intrigante. Possiamo dire che è un festival estremamente poliedrico, estremamente sì, di rivalsa anche per il Circolo di San Lazzaro, infatti è alla sua seconda edizione dopo una prima edizione che è stata interrotta a causa della pandemia. Voler presentare una rassegna così diversa, abbiamo detto Capovilla, Bobby Solo, grandi colonne, i Gemboi, le Orme, cosa significa per San Lazzaro, cosa significa per questo circolo? Significa invitare le persone innanzitutto a uscire fuori da casa dopo questa pandemia, che naturalmente sappiamo non è terminato il problema, ma si può incominciare a tornare fuori, a vedersi, a ascoltare musica, e per questo anche è un cartellone che può accogliere pubblici diversi. Noi ci auguriamo poi che chi ama la canzone italiana si è incuriosito e venga anche in un'altra occasione, ma appunto è un invito a tutti, davvero a tutti, a tornare a frequentare la società, le compagnie, il collettivo, la musica. E appunto, come hai detto, per esempio Bobby Solo, un nome importantissimo della canzone italiana, uno degli artisti che ha venduto più dischi in assoluto in Italia, che però presenterà, perché nella sua cultura c'è moltissimo blues, rhythm and blues, rock, presenterà un repertorio che, senza escludere i suoi grandi famosi hit, proporrà autori come Johnny Cash, Johnny White, insomma un concerto sorprendente. E poi Peter Erskine, grande batterista jazz. Poi ci sono due concerti che sono fatti in collaborazione con il Porretta Prog Festival, festival di musica progressive, per cui ci saranno Le Orme, gruppo storico, e Three Generations Area, una derivazione dallo storico gruppo Area, con Tavolazzi al contrabbasso e Capiosso, il figlio dello storico batterista degli Area. Quindi una continua contaminazione. Il martedì 30 novembre Le Tremblay, quartetto di cui mi onoro di fare parte, che produce un repertorio che noi chiamiamo progressive da camera, flauto, chitarra classica elettrica, contrabbasso e batteria, dove si uniscono linguaggi tra l'accademico, il rock, il classico, le pronunce jazzistiche, la pagina scritta e l'improvvisazione. E questo è il flusso generale di questo cartellone, dove appunto i linguaggi e gli stili musicali si intrecciano uno con l'altro. Un cartellone sicuramente interessante. Vogliamo dare qualche piccola informazione più tecnica sulle presenze, sui biglietti? È un festival che prevede il tesseramento? Sì, allora, come essendo Circolo Arci, abbiamo deciso appunto di farlo questa volta, come ormai dopo la pandemia specialmente, fare tutte le attività sempre come associati, quindi abbiamo bisogno della tessera ARCI per entrare a vedere questi concerti. Del resto i concerti hanno un costo che va dai 10 ai 20 euro. Con la tessera ARCI c'è anche in omaggio un bel piatto di tagliatelle, per cui è un'incentivazione che facciamo al pubblico ed è anche un fatto di collaborare con un circolo che sta facendo di tutto per poter far tornare fuori le persone, per fare cultura, per fare musica, e quindi la tessera è anche un segno di partecipazione, è una mano che si dà a queste attività. Ci sono artisti appunto che vengono da tutto il mondo come Peter Erskine, ci sono artisti più territoriali come i Mariposa, che sono un gruppo, un ensemble molto interessante bolognese, che avranno peraltro come ospite Federico Poggi Pollini, che faranno questo Liscio Gelli, il radiodramma tra musica, Filuzzi, rock, tutto gestito con uno speaker come se stessimo partecipando a una trasmissione radiofonica, e con cui poi ci saranno sorprese nella trama di questa serata. Un festival sicuramente interessante a cui non possiamo che augurare veramente il meglio, e ringraziamo Marco Coppi per essere stato ai nostri microfoni e buon festival. Grazie a voi, a presto. A presto. Ciao.